Sport e motori con Massimo Di Scienza. Le 16.34, 45 secondi, rigorosamente in diretta su Radio 24. Buon pomeriggio, accendiamo i motori di una nuova domenica insieme, una domenica consacrata sull'altare della MotoGP. I più appassionati, quelli che magari ieri sera non hanno fatto tardi e questa mattina hanno puntato la sveglia alle 7 per vedere la MotoGP, si sono goduti un gran bel duello tra Valentino Rossi e Nicky Hayden per la terza piazza, dietro Casey Stoner e Jorge Lorenzo in vicinanza. Rossi, il suo duello con il suo prossimo compagno di squadra, l'ha vinto. È stata sicuramente la parte più bella di un gran premio comunque molto interessante, quello di Phillip Island, che per la quarta stagione consecutiva, per il quarto anno consecutivo, ha incoronato il padrone di casa Casey Stoner, uno che conosce quella pista come noi comuni mortali conosciamo il garage, il box di casa. Vero Carlo Vanzini, inviato di Sky Sport, è ancora con noi. Ciao Carlo. Sa che conosce meglio lui la pista che non io il garage di casa. Sì, dove rischiamo ogni tanto non poco. Insomma, lo Stoner oggi è assolutamente imprendibile, Carlo, vero? Sì, imprendibile, e c'è questo dato di fatto che la Ducati sta letteralmente volando, ovviamente con Stoner, ma anche Hayden dimostra la qualità della moto in questo momento, restando sempre lì a lottare sul podio oppure a ridosso del podio. Non dimentichiamo che Stoner l'ultima gara è caduto, quella vinta da Valentino Rossi, perché lui ha la terza vittoria consecutiva se togliamo quella caduta. Di fatto. 800 24 00 24 per parlare con noi, il nostro numero verde, SMS al 349-238-6666 per raccontarci come avete visto la gara di questa mattina, se insomma questa Ducati in questo momento è così una spanna o forse anche due sopra le altre, e perché, e se saprà poi essere in grado di ripetersi il prossimo anno quando alla guida ci sarà Valentino Rossi. A proposito di Casey Stoner, a proposito di razzi sulla pista di Phillip Island, lo ascoltiamo proprio Stoner, raggiunto subito dopo la fine della gara. Ma no, non ci credo, non penso. Abbiamo lavorato duro questo weekend, questo sì, la moto funzionava benissimo, mi sono divertito molto su questo circuito, c'erano alcune curve in particolare in cui davvero mi sono divertito molto, mi sono divertito un sacco, sì, posso dirlo, è stato un weekend fantastico, siamo stati velocissimi, a parte nella prima sessione, in genere nel weekend c'eravamo sempre, e sapevo già che sarebbe stata una gara competitiva, però dopo che sono riuscito a prendere questo piccolo vantaggio nei primi giri sono riuscito a controllare, non ho fatto errori, avevo anche del tempo da perdere in un certo senso, quindi sono riuscito a mantenere insomma il passo. Un Casey Stoner, Carlo, che è esploso nel momento in cui però di fatto Jorge Lorenzo il mondiale l'aveva già vinto. Anche qualche problemino psicologico secondo te nel corso della stagione per l'australiano o no? Beh, di problemi sicuramente Stoner li ha avuti nel corso di questa stagione, li ha sempre avuti nel corso della sua carriera, se fatto eccezione per l'anno della conquista del titolo mondiale. Diciamo che siamo di fronte un po' alla stagione dei rimpianti, perché Stoner, lo ricorderete, è caduto alla prima gara quando poteva dominare quel Gran Premio, o quantomeno partire con un gran bel risultato. È caduto Rossi durante la stagione facendosi male, è caduto Pedrosa. Abbiamo dato già la scorsa puntata assolutamente il merita Lorenzo della conquista di questo titolo mondiale, però abbiamo un po' il rimpianto di non aver vissuto al top questa stagione con questi piloti che con un po' più di fortuna avrebbero sicuramente reso la vita più difficile a Lorenzo e noi avremmo gustato un altro spettacolo. Spettacoli come quello, lo dicevamo in apertura, che ha garantito ancora una volta Valentino Rossi. Gli ultimi due giri con Nicky Hayden sono stati assolutamente tutti da gustare, sono valsi il prezzo del biglietto per chi ha visto la gara dal circuito di Phillip Island o per chi si è svegliato appunto questa mattina molto presto per gustarseli in diretta. Valentino Rossi, che alla fine della gara ha fatto un annuncio molto importante, e tra poco ne parliamo con Carlo Vanzini. Prima però ascoltiamo le impressioni proprio del dopo gara. Ecco Valentino. Sono molto contento per il podio comunque, perché sai, quando partire dalla terza fila è sempre difficile, però speravo di essere un po' più veloce, l'anno scorso ero andato molto meglio e speravo di essere mezzo secondo al giro più veloce e purtroppo mi scivolava tanto dietro, quindi non riuscivo ad andare più forte di così, però vabbè, mi sono divertito con Nicky, è stata una bella bagarre all'ultimo giro ed è stato durissimo fregarlo. Non c'è dubbio, è stato un bel duello, Carlo. come dire, inizia un rapporto leale, schietto, sincero, però Nicky Hayden ha voluto dimostrare, insomma, di non partire assolutamente il prossimo anno per stare lì a fare il valletto, no? Ha voluto farlo vedere ancora una volta in pista. Sì, però Rossi gli ha fatto capire che lo farà. Beh sì, punti di vista, è vero. Bisogna no, spiegarlo a Hayden. Vabbè, loro sono già stati compagni di squadra, sì. Quindi, insomma, dovrebbero non avere problemi, sono due veterani, quindi dovrebbero vivere questa avventura bene, anche perché se poi Rossi riesce a portare quello che sa portare ancora di più a una moto che sta andando fortissimo, beh, anche Hayden può solo che trarne vantaggi. Va detto che Rossi, da quando è stato fuori il discorso che doveva farsi operare la spalla e da quando soprattutto si è allontanato dall'Europa, ci sta facendo divertire gara dopo gara. Il podio con Lorenzo, la vittoria e poi questo podio con Hayden, insomma tre gare consecutive da Rossi vero. Speriamo di vederlo anche in Europa, visto che fra due settimane si corre all'Estoril e poi si chiude la stagione a Valencia, e chiaramente Valentino vorrà finire l'anno in bellezza, anche perché, e qui siamo all'annuncio che poi è la vera notizia di questa domenica, Carlo, inutile girarci intorno, anche perché dicevamo, dopo il Gran Premio di Valencia dall'8 novembre, ebbene sì, Valentino Rossi potrà finalmente provare la rossa, provare la Ducati, l'ha annunciato lui stesso alla fine della gara, ha detto di essere stato chiamato da Furusawa, che è responsabile sportivo della Yamaha, che aveva avuto peraltro, ricordi Carlo, anche un piccolo battibecco proprio con Rossi alla fine del Gran Premio di qualche settimana fa per il duello prolungato con Lorenzo. Ebbene, Furusawa l'ha chiamato, lo ha rassicurato su questa possibilità di provare subito la Ducati in segno di ringraziamento per quanto ha fatto con la Yamaha. Ha detto Valentino, mi sembra un bel gesto, si vede che la Yamaha ha dato valore alle cose fatte in questi anni. Una conclusione un po' inattesa, proprio alla luce di questi rapporti non facilissimi che erano andati via via creandosi nelle ultime settimane. Sei d'accordo, Carlo? Beh, mi sembra comunque che la Yamaha in questo modo saluti nel migliore dei modi chi l'ha riportata sul tetto del mondo, ed era giusto così. Se ne parlava già durante la stagione, c'era stato, si dice, un gentleman agreement tra gentiluomini, un accordo tra gentiluomini, già quando Valentino Rossi aveva firmato per la Ducati. La Yamaha chiese di ritardare il più possibile l'annuncio in modo tale da andare su quelle piste dove il mercato Yamaha è importante, soprattutto in America, con Valentino Rossi ancora pilota ufficiale Yamaha. Questo annuncio è stato ritardato e già allora sembrava che ci fosse questo accordo poi di concedere a Valentino Rossi il test con la Ducati. Comunque questo spiega due cose. La prima, il fatto che l'operazione alla spalla sia stata rimandata, perché Valentino Rossi tutto sommato sapeva già cuor suo, diciamo così, che la Yamaha poi avrebbe dato il consenso per disputare questi test. La seconda vuol dire che Valentino Rossi potrà poi farsi operare con la già con il feeling con la moto, quindi avrà dei mesi per pensare nella sua testa come andrà questa moto, ma soprattutto avrà dei mesi per dare indicazioni. Il dottore, lo sappiamo, non si chiama dottore mica per niente, è uno che appena prova sa che cosa dire, avrà dei mesi per dare indicazione ai tecnici per come sviluppare al meglio una moto che sembra tutto sommato già andare estremamente forte. Molto molto bene, resta da capire che tipo di moto proverà Valentino Rossi. Abbiamo letto delle dichiarazioni di Alessandro Cicognani, che è il project manager MotoGP di Ducati, che ha parlato proprio al sito ufficiale di MotoGP.com, ha detto sono molto felice ovviamente per questo segno importante nei confronti della Ducati di Valentino Rossi da parte della Yamaha. Al momento, ha detto, non abbiamo ancora dettagli particolari sulla moto che proverà Rossi a Valencia, di sicuro sarà il prototipo del 2011, ci stiamo però lavorando. Peraltro, Carlo, i test che si fanno a fine stagione per quanto riguarda le due ruote sono sempre molto più affidabili e credibili rispetto a quelli che poi la Formula 1 mette in scena in quella parte finale di stagione, inizio della stagione successiva, cioè già a fine stagione 2010 forse ne sapremo di più, no? Di come sarà la griglia di partenza per il prossimo anno. Beh sì, c'è una differenza importante. In Formula 1 si lavora molto adesso utilizzando il venerdì delle prove libere per preparare o provare delle componenti per le monoposto del 2011, e questo poi è il vantaggio che magari potrà avere la Mercedes con Schumacher la prossima stagione, perché le altre scuderie, quelle in lotta per il mondiale, stanno provando prevalentemente per il finale di questa stagione. Invece è a fine stagione non hanno dei test per provare la stagione 2011 in Formula 1, quest'anno l'avranno per provare le gomme, perché si cambia, lo sappiamo, arriva Pirelli, monomarca dalla prossima stagione in Formula 1, quindi dopo Abu Dhabi c'è la possibilità per tutti per capire che direzione prendere per sfruttare al meglio le nuove gomme. Invece nelle moto sono fondamentali questi test, perché poi ci saranno i motori spenti fino a febbraio e avere già dei buoni risultati, dei buoni confronti tra i numeri ottenuti con le simulazioni, i numeri della pista, vuol dire essere già a metà dell'opera, ritrovarsi poi a febbraio con una moto che di partenza sulla carta va già forte. Chi invece va male in questi test sa che deve in qualche modo già rifare tutto. Noi stiamo ovviamente già pensando al 2011 per la MotoGP, perché la stagione è abbondantemente conclusa. Di fatto non abbiamo ancora detto, Carlo, in questo primo quarto d'ora di diretta, che comunque Lorenzo il suo mondiale l'ha già vinto, ed è bene ribadirlo anche in questa circostanza per i più disattenti. Invece per quanto riguarda la Formula 1, il titolo 2010 è assolutamente in palio, e ne parliamo nella seconda parte di Sport e Motori. Adesso gli aggiornamenti sul traffico. Sport e motori. Le 16:47 minuti, seconda parte di Sport e Motori. Vi ricordiamo che potete raggiungerci al 349-238-6666 con i vostri sms, 800-24-0024 se avete voglia di farci un po' compagnia in questo ultimo quarto d'ora che trascorriamo ancora con Carlo Vanzini, inviato di Sky Sport. Ciao Carlo, ben trovato. Ciao. E parliamo di Formula 1 adesso. Lo facciamo anche con una piccola sorpresa per i nostri ascoltatori, perché ovviamente ci stiamo interrogando già dalla scorsa settimana, anche in proiezione Corea e non solo, su chi può essere il favorito per questa corsa al titolo mondiale di Formula 1, e chi meglio che la SNAI, che è il principale raccoglitore di scommesse in Italia, può darci una risposta per capire proprio chi è favorito e chi deve rincorrere. Noi salutiamo e ringraziamo Antonio Saicali, quotista della SNAI e immaginiamo espertissimo di Formula 1. Buonasera Saicali, grazie per averci raggiunto. Buonasera, grazie a voi per l'invito, buonasera a tutti i radioascoltatori. Ovviamente il nostro Carlo Vanzini è invitato a porgere domande e curiosità per Antonio Saicali. La prima domanda, Saicali, che ovviamente un po' da sportivi, da curiosi, da appassionati di scommesse che le facciamo, è: in questo momento quali sono le quote SNAI per il vincente nel mondiale piloti di Formula 1? Chi tra Webber, Alonso, Vettel, eventualmente anche Hamilton e Button è favorito, e quali sono le quote che mettete a disposizione degli scommettitori? Questa è una domanda facile, partiamo così. Rispondere, perché sono dei numeri. In questo momento, un po' a sorpresa rispetto a quello che era la quota iniziale, il favorito è Mark Webber, che si trova a 2,30. Il secondo favorito, però praticamente sono due i secondi favoriti, perché Alonso e Vettel hanno grosso modo le stesse possibilità. Per noi è un pochino più favorito Alonso, quotato a 3,30, Vettel a 3,60, mentre Hamilton e Button hanno possibilità inferiori, però ancora la fiammella della speranza accesa. 22 la quota di Hamilton, addirittura 60 volte la posta scommessa la quota di Button. Per un'eventuale conferma del campione uscente. Altra domanda anche qui facile, perché immagino i dati, insomma, siano, lei le abbia sotto mano. In questo momento, come dire, prevale il tifo da parte degli italiani, e quindi la puntata di scommesse su Alonso è preponderante rispetto agli altri, o c'è invece un altro tipo di direzione che hanno preso le scommesse? Ricordiamo, a una settimana dalla Corea, che è soltanto il terz'ultimo Gran Premio della stagione. Dunque, diciamo che l'effetto tifo sulle scommesse compare sempre in percentuale calante, questo non solo sulla Formula 1 ma anche nel calcio e anche, diciamo, a livello di nazionali. Se pensiamo al 98, appunto agli anni, ai primi anni delle scommesse legali in Italia, la componente del tifoso nell'ambito della scommessa era almeno al 50%, adesso c'è ancora un 20-25% di persone che si fa influenzare dall'aspetto proprio del tifoso, ma la maggior parte delle scommesse sono diventate molto tecniche, e infatti, diciamo, il più giocato da noi in questo momento è Alonso, ma perché ha riaperto il mondiale e perché diciamo ci sono dei presupposti per cui abbia ancora delle buone possibilità, ma a livello proprio di preferenze di gioco sono stati Vettel e Hamilton, che nell'ambito del corso della stagione sono stati i due che più volte hanno dimostrato di poter essere loro i piloti superiori, anche se poi questa conferma non è mai avvenuta. Sai Cali, mi sono andato a riprendere le quote della SNAI vincente mondiale per quanto riguarda i piloti all'inizio del mondiale, quindi esatto, nel mese di marzo. Webber era a 20. Appunto. Esatto. Webber era a 20. Volevo chiederle questo: quanti scommettitori, che lei sappia più o meno in questo momento, stanno facendo un tifo pazzo e sfegatato per Webber, visto che potrebbero, come dire, ventuplicare, non so se si dice in italiano, allora, la propria puntata? Quanti sono? A 20 l'hanno stato veramente in pochi. Io credo che si possa restare tranquillamente nell'ambito delle decine di persone, forse non è detto che si arrivi a due decine. Ha trovato maggiori consensi negli ultimi mesi perché ha dimostrato una certa qual solidità. Diciamo dei tre piloti che maggiormente si contendono il titolo in questo momento è quello che è stato più regolare, c'ha un solo zero, mentre sia Vettel che Alonso hanno tre zeri ciascuno, e già questo la dice lunga. E poi forse un po' anche il suo non essere personaggio, il suo partire forse come seconda guida, anche se Chris Horner non ha mai detto di avere una prima e una seconda guida, ma sempre di avere due piloti con pari chance. Questo non lo so, Webber non ha mai raccolto e suscitato grandi fantasie negli scommettitori, adesso però si sono accorti della sua consistenza, della sua bravura, e un pochino di più lo giocano, però a 20 non c'è stato assolutamente un grande interesse. Immaginiamo. Certo, a meno che Carlo Vanzini nel portafoglio non abbia una ricevuta di una giocata magari primo marzo su Mark Webber, e conoscendo Carlo Vanzini magari lì zitto che fa il tifo per il pilota australiano. Carlo, hai curiosità per Saikali? Io volevo intanto sapere le quote per il Gran Premio di Corea, perché è il prossimo appuntamento, e poi avevo la curiosità che ho sempre avuto nel preparare le quote. Tengono in considerazione del circuito, delle caratteristiche tecniche del circuito, e quindi chi potrebbe essere favorito su quel circuito da un punto di vista tecnico con la macchina? Ad esempio, prima di Suzuka tutti gli addetti ai lavori sapevano che la Red Bull era nettamente più forte. Nel preparare le quote con anticipo c'è questo studio tecnico, o si basa il tutto solo sui risultati in corso del campionato? Dunque, le componenti ovviamente sono tutte e tre, allora diciamo così, la forma del pilota, la forma attuale, poi l'adattabilità della macchina al percorso, o la presunta adattabilità della macchina al percorso, e poi la principale sono le aspettative del mercato. Noi operiamo in Italia, maggiormente il nostro gioco si svolge nelle agenzie, quindi è chiaro che da noi ci sarà sempre una quota interessante per le Red Bull e un pochino più protetta, ma si parla di centesimi di quota, naturalmente di decimi di quota, un pochino più protetta sulle Ferrari. Questo però diciamo è la regola, cioè qualsiasi bookmaker cerca di studiare, cerca di sapere, ha dei consulenti, ha degli esperti, ha un pool in genere di esperti per ogni sport, per ogni specialità, e di volta in volta si vede, basta vedere un po' quest'anno l'apertura dei vari Gran Premi a Suzuka. Parlavamo appunto di questo tracciato perfettamente adattabile alle Red Bull, e le Red Bull in effetti erano favoritissime sin dalle prove, addirittura si ipotizzava un match che si sarebbe risolto soltanto in qualifica tra Vettel e Webber, la qualifica poi ha stabilito anche l'ordine relativo della gara, e che di fatto appunto non è cambiato. Su questa pista nuova coreana, al di là del fatto che i nuovi circuiti progettati da Tilke sono più o meno tutti sulla falsariga e cercano di non favorire spiccatamente la macchina, perché hanno diciamo un buon mix tra curve lente e rettilinei piuttosto lunghi, e quindi insomma diciamo ce n'è per tutti i gusti, e quindi qui si corre su un circuito nuovo, non siamo nemmeno ancora convinti che l'asfalto sia perfetto, che tutto il funzionamento sia perfetto, vedremo un po'. Qui diciamo, ecco, questo forse è l'unico Gran Premio dove si parte un po' tutti alla pari, e chiaramente le quote saranno spenti un pochino più equilibrate, senza avere una vettura così smaccatamente favorita come poteva essere la Ferrari a Monza, o come poteva essere la la Red Bull a Suzuka. Quote, ecco, che non sono ancora disponibili per il Gran Premio di Corea. Le quote saranno disponibili da martedì nel circuito, insomma, l'apertura del palinsesto, che come sapete avviene sempre tramite il monopolio di AMS, che appunto stabilisce quando è a fine le scommesse. Noi fino a martedì, probabilmente addirittura fino a mercoledì pomeriggio, non sarà possibile aprire il gioco. Segalli, per concludere, poi la salutiamo. C'era fiducia nei confronti di Michael Schumacher all'inizio della stagione, e c'è ancora qualcuno che scommette su di lui, su possibili vittorie? Immaginiamo che la quota, al di là della vittoria mondiale piloti, attualmente inesistente, ma per la stagione a quota 8 era, però bisogna ricordare che questa scommessa viene aggiornata dopo ogni Gran Premio, quindi è una scommessa che sta aperta tutto l'anno e chiaramente risente moltissimo di quelli che sono i risultati di ogni Gran Premio. Ma sulle singole gare, sui singoli Gran Premi c'è qualcuno che scommette su Schumacher? Adesso direi quasi non più. C'è stato un po' di interesse, mi sembra, sta quando si pensava delle previsioni meteorologiche per una gara bagnata. Allora c'era qualche nostalgico, ormai li chiamo io i tifosi di Schumacher, qualche nostalgico che ha sperato in un risveglio del grande pilota da bagnato che era Schumacher, che però non c'è stato, anche se comunque fu una buona gara. Direi che negli ultimi Gran Premi è totalmente trascurato. Viene giocato Mass, viene giocato Alonso ovviamente, vengono giocate le due Red Bull, ma Vettel, soprattutto Vettel, e viene giocato Hamilton, che comunque ha sempre un ruolo da protagonista nel bene e nel male. Adesso la SNAI tremerà perché Carlo Vanzini, noi siamo pronti con Carlo con carta e penna. Carlo, ci darai il favorito per pole position e vittoria nel Gran Premio di Corea, visto che noi domenica pomeriggio andremo in onda a commento della gara. Noi siamo pronti per seguire le tue indicazioni per le scommesse con la SNAI. Carlo, dici, sono pronto, carta e penna. Sai che pole position, vado controcorrente. Certo. Quindi metterei un euro su Hamilton campione del mondo, visto che ha pagato 22. Non male. E visto che è l'ultima chance per lui, direi Hamilton in Corea. Hamilton in Corea, abbiamo preso nota, quindi Carlo, poi verificheremo ovviamente domenica com'è andata la scommessa. Noi veniamo a giocare in settimana in SNAI, grazie anche ai contributi e alle indicazioni di Antonio Segalli, quotista SNAI, esperto, avete sentito, di Formula 1 come pochi. Grazie Segalli, ci risentiamo presto ovviamente per aggiornamenti. Grazie a voi e a presto a tutti. Grazie, buona domenica. Con Carlo Vanzini noi ci diamo appuntamento a domenica prossima per una nuova puntata di Sport e Motori. Carlo, buona settimana, ci godiamo il Gran Premio di Corea e così anche con grande curiosità per capire com'è questo tracciato. Domenica prossima, Carlo. Grazie mille, una pillola. Vai. Complimenti a De Angelis e Redding, che ricorderete purtroppo con la morte di Tomizawa erano stati loro involontari protagonisti. Oggi primo e secondo insieme sul podio, questa è la storia di una vita di due ragazzi che escono forse da quel dramma andando sul podio ricordando il giapponese Tomizawa. Giusto chiudere così. Grazie a Giorgio De Luca in redazione, Pietro Lacorte in regia. Noi ci risentiamo domenica prossima. Vi lascio alle sapienti mani di Carlo Genta. Ciao, alla prossima. Sport e Motori.